Stai ascoltando Radioactive. Info su www.radioactive.org. Altre radio dal circuito su radio.autistici.org. Esodo sonoro attraverso il caos della rete. The world has just collapsed. Enjoy your ears. Stay tuned.